Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, vabbè, iniziamo! Oh, no, ed eccoci qui, buonasera, buonasera, eccoci qui lunedì 19 e qualcosa, oggi 20 ottobre, questa è Nervaturi, io sono Addu. Ritorniamo in voce quindi con questa trasmissione. La trasmissione vi parla di piante, biologia, natura, giardinaggio, botanica e chi più ne ha più ne metta. Settimana scorsa non sono... no, anzi, scusate, settimana scorsa sì e quella prima no. Aiuto, ora mi confondo. Insomma, ho saltato una volta perché c'era Gaza Alive, ma... e quindi giustamente tutte le trasmissioni sono state messe in secondo piano per dare voce a quell'iniziativa, ma oggi siamo di nuovo qui in voce, appunto 20 ottobre, lunedì, e che dire, sono qui sola in regia, ma spero di riuscire a tenermi compagnia un bel po'. In questo momento direi di non dare ulteriori spoiler, facciamo subito sentire magari un primo pezzo e poi partiamo con la puntata di oggi. Gagner l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Pas facile. Gagner l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent. Bosser, bosser, pas facile. Gagner l'argent français. l'argent français. Pas facile, gagner l'argent français. Bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français. Ed eccoci qua, questa voce spettacolare, Mamani Keita, ovviamente Gagné l'argent français, si era capito il titolo, vorrebbe dire guadagnare insomma i soldi francesi, molto interessante. Vabbè, allora, quindi cosa vi racconterò in questa puntata odierna? Allora, l'argomento è un argomento molto semplice, come sempre mi scelgo argomenti semplici e pochissimo ambiziosi, e l'argomento di oggi è essere natura, ovvero, detta molto facilmente, quello che ormai sentiamo dire in realtà da tante parti è che, almeno questa è una corrente di pensiero, non tutti la pensano così, ma insomma, in tanti dicono che noi, in quanto esseri umani, Homo sapiens, non siamo fuori dalla natura, siamo parte della natura, quindi ci dobbiamo iniziare a considerare tale e addirittura magari questo approccio, questo modo di pensare può portare delle conseguenze, potrebbe anzi portare delle conseguenze positive anche su come effettivamente agiamo e quindi rispettare il pianeta in cui viviamo, meno inquinamento e ovviamente insomma tutta una serie di implicazioni ecologiche. Perché volevo parlarvi di questo? Ovviamente, appunto, come già detto, non è un argomento facile, estremamente ambizioso, ma ve ne voglio parlare in due chiavi diverse, ovvero in due raccontandovi due esperienze diverse che ho racimolato in questi ultimi mesi, che appunto mi hanno fatto riflettere al riguardo. La prima, che in realtà è la seconda in ordine temporale, ma è quella da cui inizierò a parlare, è una mostra che è ancora presente fino però solo al 29 ottobre, quindi affrettatevi, al Museo del Novecento, che si chiama per l'appunto Siamo Natura. È una mostra dell'artista Haley Mellin, un artista statunitense, e si chiama così proprio perché il concetto fondamentale che vuole passare è proprio questo stesso argomento di cui ho scelto di parlarvi io oggi. Lo fa tramite il racconto della storia, appunto il racconto dell'autrice stessa, dell'artista stessa e di tutti i suoi progetti appunto artistici e appunto di per preservare l'ambiente. L'altro invece esperienza di cui vi racconto oggi è un libro che appunto ho letto, si chiama Intuizione Selvaggia, è scritto da Craig Foster pubblicato nel 2024, quindi estremamente estremamente recente, e già il nome fa un po' drizzare le orecchie. Il sunto del libro è che tramite racconti della vita personale dell'autore, dello scrittore, quindi autobiografici, lui cerca di farci percepire, o perlomeno farci venire voglia di sentirci più natura, di avvicinarsi alla natura. Capiremo meglio nella seconda parte della puntata come, perché il suo avvicinarsi alla natura non è fare i bagni di foresta o fare il trekking la domenica, vedremo meglio come, è molto molto più intenso. E quindi ecco, questo era per dare due prospettive diverse, però quindi persone diverse ma con lo stesso obiettivo. Allora, quindi inizierei proprio dalla mostra, come vi dicevo. Dunque, la mostra si trova, intanto do un po' di informazioni, al Museo del Novecento a Firenze, quindi Piazza Santa Maria Novella. È al piano terra, sono due o tre sale, è piccola, si vede anche in poco tempo volendo, e si articola così: ci sono tre sale, insomma, con i disegni dell'artista, e quindi sono alcuni dipinti, altri a schizzi più tipo carboncino, che rappresentano di base tutti elementi naturali. Sono bellissimi, prima cosa, e tra l'altro, per esempio, per quanto riguarda i dipinti, sembrano fatti a olio, in realtà sono fatti con una tecnica che si chiama gouache, che sostanzialmente la differenza è che usa prodotti completamente naturali perché l'artista ha proprio questa indole, questa voglia di appunto essere anche completamente sostenibile, ecco, questo è quello che professa. Per cui sono dipinti non tanto grandi, tra l'altro anche la dimensione è dovuta al fatto che lei vuole che siano facilmente trasportabili, quindi con l'idea di inquinare poco per il trasporto appunto di queste opere d'arte, e rappresentano alcune di queste la foresta. Quindi tutto ciò che è rappresentato sono piante, cioè esseri viventi vegetali. Magari sì, ci può essere qualche piccolo insetto, ma insomma di base foresta, piante, dà delle prospettive veramente molto non convenzionali, perché sono delle fotografie, passatemi il termine, a proprio la foresta come si presenta davvero, perciò non rieccata, possiamo dire. Ma ha una foresta di tipo pluviale, quindi tutta ingarbugliata, quindi dove non si vede attraverso, dove si capisce c'è più piani nello spazio, ma sono tutti mega confusi perché appunto le piante in primo, in secondo, in terzo, in quarto piano si mescolano tutte in un insieme di liane, di alberi caduti, di piante molto frondose, insomma. Rappresentano effettivamente come appare quel tipo di foresta lì. Per dirvela semplicemente, io quando sono entrata alla mostra pensavo che fossero fotografie, invece poi chiaramente avvicinandosi si capisce che sono dipinti. Quindi questa è una parte della mostra, l'altra parte è un'altra sala invece dedicata a contenuti multimediali, quindi ci sono proiettati, cioè su degli schermi, comunque due video, uno dei quali racconta delle esperienze in campo proprio dell'artista di Halley Mellin, e l'altro invece è un'intervista di base che ho apprezzato molto perché più che un'intervista, e viene proprio detto esplicitamente questa cosa, è una videochiamata tra una delle curatrici della mostra e l'artista, che sì, vabbè, posta sotto forma di intervista, chiaramente, dove quindi a Halle Mellini viene chiesto di spiegare sia il suo trascorso, sia come è arrivata a essere quello che oggi, sia tutto, tutti i suoi, comunque, le sue lotte per l'ecologia, per la salvaguardia degli ambienti, dei paesaggi, tutti i suoi progetti. Però ho apprezzato il fatto che fosse effettivamente una videochiamata, nel senso non c'è stato vizi di forma nel voler anche lì impacchettare in chissà quale modo quello che poi è normalmente un'intervista. Quindi un po' di umiltà, diciamo, semplicemente nel sì, è stata online, è stata una videochiamata, una delle tante videochiamate, come dicono, che sono servite all'organizzazione della mostra. E quindi, insomma, è bello perché ci sono tipo mezz'ora appunto di intervista proprio con l'artista, quindi con la sua faccia, con le sue parole, in modo molto, molto, molto informale. Quindi questo mi è piaciuto parecchio. Quindi, che dire? Parliamo magari un po' appunto di chi è Halley Mellin. Halley Mellin è, come vi dicevo, statunitense, è nata a San Francisco e ha studiato all'Università di California, ha poi completato il Whitney Independent Study Program, ha poi potuto anche studiare al Museo di Harlem, al Museo di Arte Moderna e in tanti altri posti, facendo anche varie altre collaborazioni. Tra questi posti c'è anche la città di Firenze. Questo è, come ci possiamo immaginare, uno dei motivi per cui effettivamente la sua mostra Questa Siamo Natura, appunto, l'ha voluta fare proprio a Firenze, perché lei, appunto, ha passato diversi anni qui lavorando o comunque studiando da Rose and Claire, quindi il famoso duo di appunto artiste sudafricane, tra l'altro. Perché vi dico questa cosa? Perché è buffo che lo scrittore del libro di cui vi parlerò dopo, anche lui è sudafricano, quindi c'è questo link buffo, inaspettato. Come vi dicevo, Hallie Mellin è profondamente devota alla protezione e alla salvaguardia di habitat, di ambienti. Infatti ha creato, ha fondato un'organizzazione no profit che si chiama Art into Acres, quindi arte negli acri, tipo una roba del genere, che sostanzialmente consiste in, appunto, un'organizzazione che prende tramite, appunto, donazioni materiali, quindi proprio di opere d'arte, da artisti che si prestano, appunto, a questa operazione, riesce poi a accumulare una serie di fondi per creare fondamentalmente delle riserve naturali. Quindi un po' a giro sparse nel mondo, cioè ce ne hanno fatte veramente tante ormai, e in alcuni casi comprando la terra, in altri semplicemente, diciamo, tramite chiaramente tutte azioni sul territorio, quindi anche governative, eccetera, eccetera, hanno definito, appunto, dei confini per, appunto, dicendo quest'area è soggetta a salvaguardia, quindi per esempio non ci si può entrare. Ovviamente in questo progetto vengono in un certo senso chiamate molto in causa tutte le comunità indigene, perché in molte di queste aree che vengono scelte per, appunto, da proteggere, abitano già delle comunità indigene. Interessante il fatto che in alcuni casi, in molti casi, loro come proprio metodo di salvaguardia hanno quello del non toccare, non fare, non entrare, per cui la distanza, appunto, mettere una distanza tra noi umani civilizzati e una certa area designata. E quindi cosa succede? Che a volte comunque hanno bisogno di fare tutta una serie di rilievi, di studi, di immagino rilievi geometrici e cose del genere, li fanno dall'alto, quindi con i droni, con forse anche elicotteri, ora non so di preciso, comunque, appunto, proprio per non entrare nell'area. Questo lo fanno soprattutto nel caso in cui, in quella specifica area, vivano delle comunità indigene che sono state, diciamo, identificate come ancora non entrate in contatto con l'essere umano. Io ci tengo solo a dire, tutte queste informazioni le ho trovate dal sito dell'organizzazione, dal sito di Hallie Mellin, per cui non sono andata a verificare poi tutte queste informazioni, sarebbe stato un lavoro enorme. Questo è quanto viene detto da loro, e già comunque mi sembrano, diciamo, degli ottimi propositi e degli ottimi obiettivi. Thank you. cucina mauga si boya mune be si boya sinama filati si kapuma minge ore be du boya cucina mauga du boya mune be du boya bale ma filati je kapuma minge ore be du boya. Quindi andando un pochino più nel vivo di questa organizzazione Arts into Acres, Acres, non so bene come si pronunci, alcune delle, diciamo, caratteristiche che hanno i territori che loro scelgono come salvaguardare, scusate, è per esempio la funzione ecologica. Quindi insomma, sembra ci sia proprio uno studio alla base, una scelta ragionata su quali ettari, su quali acri prendere in esame. Per esempio, c'è qui leggo appunto che uno dei fattori che vanno a misurare è banalmente la grandezza, perché cercano di scegliere aree abbastanza grandi, quindi oltre i 125.000 acri, che corrispondono a 50.000 ettari, qualcosa di più. Perché? Perché uno dei fattori importanti per lo sviluppo o comunque il mantenimento della biodiversità già presente è la scala, è la grandezza. Di questo ne abbiamo già parlato una volta, anche se non qui su Nervature, comunque in ambito di foreste europee. Per far sì che un habitat abbia un certo livello di biodiversità, un livello alto si intende, è necessario che quell'habitat sia largo almeno un tot, cioè che ci sia anche una dimensione spaziale da considerarsi, appunto. Quindi non ci si può aspettare che in un ettaro ci sia una biodiversità immensa, perché un ettaro è troppo piccolo, cioè non c'è abbastanza diversità di ambiente all'interno, non c'è abbastanza risorse, probabilmente non è abbastanza resiliente come habitat perché è influenzato da troppe cose all'esterno, insomma tutta una serie di fattori. Quindi ecco, tornando a Arts into Acres, cercano di prendere in esame territori un minimo grandi, quindi 50.000 ettari, insomma non sono pochi, oppure nei casi in cui i territori presi, diciamo scelti, sono più piccoli. Questo avviene quando si vuole che, diciamo, si considerano quei territori come, per esempio, corridoi ecologici. Quindi un corridoio ecologico è un vabbè, si capisce veramente al termine, una fascia di ambiente, in questo caso che viene preservata, che serve a unire altre due aree che altrimenti sarebbero non in comunicazione l'una con l'altra. Quindi tutte queste aree che vengono tutelate diventano, per esempio, aree, scusate, che nella traduzione dall'inglese simultanea non sono per niente brava, quindi aree protette degli indigeni, oppure parchi nazionali, parchi regionali o altre tipologie comunque anche di, appunto, protezione, però sempre all'interno del IUCN, delle aree IUCN, appunto. Un altro, diciamo, obiettivo dell'organizzazione è che tutte queste aree siano a direzione locale, quindi per cercare anche di mantenere vivo un legame, ecco, con le popolazioni locali, con i bisogni e le necessità del luogo in cui vanno appunto ad agire. Quindi io vi metterei ancora un po' di musica e poi andiamo avanti appunto con la puntata di oggi. Jarabi gehlema ee jarabi ka keneni maniya molo ee jarabi gehlema ee monamur ja Dana bika ke nini mani ambolo. Mami me jarabi nani, ale ma jarabi don. Mami me jarabi gosi, onu ma jarabi don. Mami me jarabi korofo, onu ma jarabi don. Eee, mon amour, jarabi kake nini mani ambolo. Je vais retrouver mon amour, je vais retrouver mon amour. Ma cosa, jarabi kake nini mali ambolo. Je vais retrouver mon amour, je vais retrouver mon amour. Ma cosa, jarabi kake nini mali ambolo. Ma ehe jarabi jarabi kake nini mali ambolo. Ehe jarabi jarabi gele ma ehe mon cheri jarabi kake nini mali ambolo. Na yimi na sentirila o bebe jarabi la. Na yimi na karafatila o bebe jarabila. Na yimi na cheki sema o bebe jarabila. Ehi mon amour jarabi kake nini mali ambolo. Na yimi na simarama o bebe jarabila. Na yimi si karafatila o bebe jarabila. Na yimi si sentirila o bebe jarabila. Ehi mon chéri, jarabi kake nini mali ambolo. Je vais retrouver mon amour, je vais retrouver mon amour. Ma cosa, jarabi kake nini mali ambolo. Je vais retrouver mon amour, je vais retrouver mon amour. E quindi un po', ecco, per concludere riguardo a questa mostra, Siamo Natura al Museo del Novecento di Halley Mellin. Volevo un attimo ritornare su i disegni, sui quadri. A me personalmente mi hanno molto colpito appunto i quadri fatti a tecnica gouache, non so bene come si pronunci, perché sono quelli che, diciamo, prima vi dicevo e mi sembravano fotografie da lontano. Invece poi avvicinandomi chiaramente sì, si vede benissimo e sono dipinti, ma con una maestria incredibile. E quindi appunto dicevo, volevo un attimo ritornare su questi, perché se nella intervista dell'altra sala, no, appunto, Halley Mellin in continuazione riprende il concetto di sentirci parte della natura, di considerarci completamente natura anche noi, una parte di essa, e quindi andare verso la natura il più possibile sempre, nel senso di più che andare, diciamo, di non distaccarsene, quei quadri lì, dopo aver sentito l'intervista, appunto, ho ricollegato, perché effettivamente a guardarli uno si mette lì davanti al quadro e dice: beh, che sto guardando? Un approccio potrebbe essere questo, della serie: questo quadro, boh, mi rappresenta una massa di roba verde incasinata, e quindi che mi rappresenta? Che cos'è questa cosa che sto guardando? Chiaramente non è l'approccio che secondo me cercava Halley Mellin. L'approccio invece che cercava è quello di dire: guarda, questo è quello che noi abbiamo, diciamo, questo è quello su cui viviamo, è il pianeta su cui viviamo, il pianeta di cui viviamo, per cui viviamo, cioè grazie al quale viviamo, questa cosa qui, cioè questo ingarbuglio tremendo di foglie da cui noi esseri umani del 2025 non distinguiamo niente, cioè non ci capiamo nulla, perché sembra tutto un gran casino detto proprio con parole semplici, è tra gli habitat costituenti della Terra che più ci danno vita, perché appunto si riferiscono a habitat della foresta pluviale, quindi per esempio la foresta amazzonica, quindi quella che tutti noi sappiamo essere chiamato o che era chiamato purtroppo il polmone verde della Terra. Quindi mi è sembrata bella questa mostra perché, diciamo, nella parte di intervista questo concetto del noi siamo parte della natura viene detto mille volte, però non è che poi c'è degli esempi che vanno a fondo, perlomeno questo è per come l'ho vista e vissuta io. Non mi sembrava, ecco, che ci fossero degli esempi più specifici. Quello che c'era però era l'esempio nella sala accanto, appunto, dove si ritrovano i quadri. E quindi, ecco, mi è venuto da fare questo collegamento e credo fosse proprio voluto. Quindi, ecco, in sintesi vi consiglio di andarla a vedere. La mostra è interessante, è piacevole, non è nemmeno lunghissima. E oltre a quella, tra l'altro, mi ero scordata di dire, lo dico adesso, all'interno del Museo del Novecento c'è un cortile, quindi c'è una corte interna rinascimentale, che molto di recente, proprio a maggio di quest'anno, è stata tutta riallestita, e quindi i quattro quadrati, diciamo, delle aiole del cortile sono state riallestite con tutto un progetto di piante autoctone o quasi autoctone, diciamo, proprio appunto in collaborazione con sempre Hayley Mellin. E quindi lei ha dato un po' appunto tutto il planting, tutta l'idea, e è molto bello, nel senso, nella sua semplicità è molto bello, cioè penso che l'obiettivo fosse proprio quello, fosse proprio di ricreare o comunque di creare un ambiente vegetale che non stonasse, cioè che non fosse qualcosa di wow, che ti toglie il fiato, semplicemente quelle piante più o meno ci sarebbero state in quel posto. Relativamente, cioè si tratta di, non so, saranno 50 metri quadri in città, quindi relativamente. Però il fatto che sono state usate tutte piante autoctone, alloro, cipresso, mirto, rosmarino, acanto, insomma, tutte piante bene o male si trovano anche nei nostri boschi italiani, e che siano state posizionate non con schemi particolarmente rigidi, ma anche lì un po', diciamo, movimentate, un po' mosse, dà una sensazione di effettivamente naturalezza. Quindi è bello, l'ho apprezzato anche questo. Quindi la mostra è iniziata il 24 giugno, scusate io ve ne parlo ora, c'è stato un po' di ritardo, è aperta fino al 29 ottobre, quindi nel caso vi interessasse potete ancora andare a vederla. E ora qualche minuto di musica e poi si passa al secondo, diciamo, contributo di oggi, quindi il libro Intuizione Selvaggia, come vi dicevo in apertura. Nitara wolo lugu olu yu bolo di nyogoma Farafinde unyo kele nyatu madesera Nitara kenyega olu yu bolo di nyogoma Farafinde unyo kele nyatu madesera I love you, mama, and you are my young husband, species. What we seem to have forgotten is that biodiversity, the sheer number of animals and plants on this planet, is our mother of all mothers. She is the source that drives everything we do. Every mouthful of food, every breath of air, is coming from the complexity of nature that is making that oxygen. Over 60% from the ocean phytoplankton, the rest from land plants and trees. She is feeding all life on Earth. She is the source of all sources. And she has been here for us Homo sapiens for 300,000 years. She's cared for us from our beginnings. She's woven into our ancestral memory. For 97% of our time as humans, we've been aware of her. Many of us have worshipped her. All have respected her. We've made connections and threads to her deep source, the essence of all life, the pulsing heart of Mother Nature. The land and the sea forests, as well as the moon, the sun, the cosmos, and gravity, are all part of this magnificent architecture of life. Our shared life support system. And in this last 3% of our time on Earth, we've suddenly severed those extraordinary threads to the Great Mother. And we've somehow, in the madness, thought we could live independent of nature, forgetting that our bodies, our minds, our beings are nature itself. There's no separation. We were woven into that biological intelligence right from the beginning. We're a product of 14 billion years of this mother, of this birthing. We're literally stardust that's turned into these highly sophisticated primates. But we cannot divorce ourselves from the source. That will be our undoing and has been our undoing. Our vision at Sea Change is really to start to repair those threads back to the source and encourage and facilitate people's reconnection to nature, to the Great Mother, so that we can start to build back and reimagine the biodiversity for which this planet was designed. Ecco, questo che vi ho fatto sentire è era un piccolo cortometraggio preso dal sito di Sea Change Project, che è un... ora appunto ci sarei arrivata. È appunto un progetto creato da varie personalità, tra cui importantissimo Craig Foster, appunto, che è lo scrittore del libro di cui vado a parlarvi. Il libro si chiama Intuizione Selvaggia, come vi dicevo è stato pubblicato nel maggio 2024, quindi è veramente recente, e l'argomento del libro è quello che un po' avete sentito qua in quest'audio. Vabbè, era un video, ora voi ovviamente la parte visiva non ce l'avete, ma insomma la parte importante in questo caso era l'audio più che altro, e quindi appunto dicevo l'obiettivo di questo libro è quello di dare una serie di, diciamo, racconti, di esperienze della vita personale, appunto, dello scrittore, che possano risvegliare in noi perlomeno una curiosità, perlomeno una voglia di provare a riconnetterci, appunto, con la natura, quindi anche con noi stesse, noi stessi, perché anche noi siamo natura. Questo è un po' quello che dice appunto Craig Foster. E interessante secondo me da questo di questo audio che avete sentito il fatto che dica per il 97% della nostra storia di essere umani siamo stati collegati con la natura, con la biodiversità, quindi la fonte di vita, no? Della nostra vita, di tutte le vite, e però poi è successo e ci siamo distaccati. Ora, qui no, non andava tanto nello specifico, nel libro ne parla meglio, cioè ne cita un po' di più, e riguardo al momento, diciamo, del distacco che lo identifica con lo sviluppo dell'agricoltura, quindi 10.000 anni fa, insomma, un po' di tempo fa, non con Facebook o con, non lo so, l'industrializzazione dell'Ottocento, no, ben prima. Quindi, appunto, nel libro viene raccontata un po' la vita di Craig Foster e viene fatto tramite una serie di capitoli. Vi leggo un attimo i titoli. Introduzione alla ricerca della natura selvaggia, poi il primo capitolo è retaggio, il secondo freddo, il terzo traccia, quarto amore, poi antenati, poi paura, gioco, e poi, vabbè, la conclusione e poi delle parti finali del libro. Quindi non in modo strettamente cronologico, quindi non è un'autobiografia questo libro, però è autobiografico. Ecco, appunto, lo scrittore parla sempre di sé, e quando non parla di sé parla di persone che ha conosciuto durante la sua vita veramente affascinante, devo dire la verità. E quindi molto in sintesi ve la racconto. Lui nato in Sudafrica con un fratello, e la famiglia aveva questo micro bungalow, lo chiama, proprio su una spiaggia, proprio sulla spiaggia in riva al mare, tant'è che delle volte è stato anche allagato quando c'erano tempeste o maree particolarmente alte. E quindi il suo rapporto, quindi insomma tutta la sua infanzia di base era lui che o da solo o col fratello stava fuori tutto il giorno senza essere supervisionato dai genitori, e anzi incoraggiato dai genitori, dalla nonna, eccetera, eccetera, e stava fuori, stava a giro, e esplorava il mare, stava in continuazione nell'oceano. Poi da lì gli è nata la passione per la fotografia e il filmaggio. Si dice filmaggio? E quindi ha iniziato, insomma, a fare il documentarista, quindi ha sviluppato tantissimi documentari con suo fratello, tra l'altro, riguardo a sempre la natura selvaggia, quella che definisce sempre natura selvaggia. Quindi, diciamo, il suo obiettivo è sempre stato quello di andare verso la ricerca di che cos'è questa natura selvaggia, anche appunto tramite l'attività lavorativa, appunto, del documentarista. Quindi è andato in tante parti dell'Africa e, per esempio, racconta tantissimo del deserto del Kalahari, dove ha avuto modo di filmare tantissime scene di alcune tribù San, si chiamano San, quindi scene di caccia, scene rituali, di danze, e appunto nel libro racconta anche alcune di queste in modo molto abbastanza approfondito, e fanno veramente impressione. Cioè, veramente sono incredibili, ecco. Tutto ciò per poi invece distaccarsi dal suo lavoro, perché era arrivato a proprio a uno stress senza pari, dovuto proprio alla foga, anche alla passione che aveva per il suo lavoro, che però l'hanno portato proprio a problemi anche di salute. Per cui cosa è successo? Ha deciso di interrompere l'attività un po' l'attività lavorativa, e ha avuto questo inizio di seconda fase di vita, in cui era sempre nel Sudafrica, sempre vicinissimo alla costa, a vivere con la moglie, con il figlio, e la sua attività quotidiana era quella di andare a immergersi nell'oceano. Il suo modo di immersione era totalmente naturista, diciamo, quindi maschera e cuffia e a volte pinne e basta, senza muta, nonostante l'oceano sia molto freddo. E tutto ciò sempre con l'obiettivo, sempre il solito, insomma, riconnettersi con la natura. Questo gli ha permesso di effettivamente riuscirci molto di più, di andare molto avanti nel suo obiettivo, ed è successo con vari, diciamo, metodi, con varie esperienze. Una di queste era la terapia, diciamo, del freddo. Appunto, l'oceano, come vi dicevo, è molto freddo e quindi questo l'ha aiutato. E poi ciò che gli ha svoltato proprio la vita è l'iniziare a fare il tracking. Tracking, ovvero il seguire le orme, seguire le impronte, le tracce in generale, qualsiasi tipo di tracce, non solo le orme, che venivano lasciate da altri esseri viventi, ma anche da altre rocce e quant'altro. Perché? Perché è la pratica che aveva già visto fare nelle tribù San, nel Kalahari, per esempio, che era la pratica che gli permetteva la caccia, per esempio, che gli permetteva di, diciamo, era un po' al contrario in realtà. Il fatto di essere così connessi con tutto il resto dell'esistente gli permetteva di riuscire a cacciare, no? Quindi si cimenta anche lui con grande fatica all'inizio, perché ovviamente non sapeva nemmeno da dove partire, con questa pratica, e effettivamente dopo anni di immersione, parla veramente di anni e anni, forse non so se forse anche decenni, non ho ben capito, ma veramente tanto tempo, tanto studio, tanta dedizione, effettivamente riesce a acquisire tantissime capacità. In questo percorso, tra l'altro, tira dentro anche diverse sue amicizie, la moglie, altri amici, collaboratori, insomma un sacco di persone, e quindi inizia a fare questa cosa anche, diciamo, con una prospettiva un po' comunitaria, diciamo. Questo è anche un fattore importante per la sua esperienza. E quindi niente, tutto ciò per addirittura arrivare alla fine del libro, dove l'ultima parte, l'ultimo, diciamo, capitolo è imparare la lingua selvaggia, come iniziare la vostra pratica di tracking. Quindi dà proprio qualche, diciamo, trucchettino, insomma, niente di che, però ecco, vuole proprio spronare il più possibile. Vi andrei a leggere un attimo un capitolo, tanto i capitoli sono brevissimi, veramente, quindi si leggono, si legge anche molto bene, ecco, questo libro, tra l'altro, è molto molto scorrevole e avvincente. Il capitolo si chiama Pattinare sulla superficie della comprensione, è proprio nella fase in cui lui sta iniziando o provando a iniziare a fare tracking. Quando tornai per la prima volta nella foresta oceanica, fu come immergermi a fondo nella pura sensazione. Donarmi completamente agli elementi, aprirmi alle misteriose scoperte celate sotto ogni roccia. Dopo pochi anni di regolari immersioni, tuttavia, cominciai ad avere bisogno di qualcosa di più. Volevo capire. Non volevo essere un semplice turista, un visitatore che apprezzava il potere corroborante e la bellezza della natura. Volevo parlare la sua lingua. Volevo imparare quel vocabolario selvaggio, usarlo ogni giorno per leggere la terra, l'acqua, gli animali, per vedere all'interno di un mondo al di là delle mie fantasie più sfrenate. Ma non sapevo come fare. Sono cresciuto il più vicino possibile alla natura, vivendo nel nostro cottage al di sotto della linea dell'alta marea, nuotando ogni giorno nella zona intertidale. Ma prossimità non equivale a fluidità. Alcuni dei nostri maggiori scienziati non si sono mai visti insegnare le capacità di tracking che così tanti nostri antenati devono aver vantato. Non hanno mai goduto della guida e del consiglio che ogni bambino selvaggio iniziava probabilmente a ricevere poco dopo aver imparato a camminare. Nemmeno mio padre, che si tuffava in acque gelide con le sue due maglie da rugby, conosceva quella lingua. Dopo essermi immerso nella foresta oceanica ogni mattina per anni, avevo ancora l'impressione di pattinare sulla superficie della comprensione, una sensazione profondamente frustrante, persino dolorosa. I tracker San, che avevo passato anni a filmare, parlavano quella lingua senza sforzo, mentre dentro di me sentivo solo silenzio. Sapevo che le orme nella mia mente, se solo fossi riuscito a seguirle, mi avrebbero riportato al mio antico antenato, che era un tracker sopraffino. Riuscivo a percepirlo, il mio io originario, nei più profondi abissi del mio essere, mentre tentava di insegnarmi ciò che avevo bisogno di sapere. La nostra specie è sopravvissuta per 300.000 anni grazie alla capacità di capire i comportamenti delle creature selvatiche, seguendole per diverse miglia su terreni impervi, e io ero là, seduto all'estremità opposta di quella stirpe, mentre ancora faticavo a inanellare due parole del vocabolario innato dei miei antenati. Per quanto bramassi quella comprensione, temevo che non fosse possibile, temevo di aver aspettato troppo nella vita. Sospetto che molti provino la stessa paura quando identificano per la prima volta un desiderio di connettersi con la natura o di apprendere usi e costumi dei nostri antenati. Da dove iniziare quando c'è così tanto da imparare, quando la vita umana moderna è così tagliata fuori dalla selvatichezza? Chi impara il linguaggio più tardi nella vita potrà mai parlarlo con la stessa facilità di chi se lo è visto insegnare da bambino? Mi piaceva farvi sentire un altro degli audio che avrebbe anche il video, e in questo caso sarebbe molto interessante vedere il video, ma vi metterò semmai il link nella descrizione del podcast, così lo potete rivedere anche appunto con il visivo. E quindi vi farei appunto sentire questo altro audio, sempre uno dei cortometraggi che si trova dal Sea Change Project, dal sito. E eccolo qui, vediamo se vi arriva. It's early morning, late summer. Marine biologist Yanis Lanshoff and I are diving as usual, documenting 1001 sea forest species. a multi-year project to highlight the lives of animals in the kelp forest. On our way out, we are distracted by an octopus in the shallows. Octopus vulgaris is number one on our list of 1001. This individual is very curious. Today we are looking for number 267, the shaggy sea hare. But the octopus has other plans for us. She glides out of her den in an unusual bold move. I back away as fast as I can, but she's too quick. And grabs my camera while Yanis is filming and laughing in his snorkel. I don't want to alarm her by taking the camera from her. I'm hoping she'll let it go, but she grinds the lens into the gravel. Her suckers explore and taste the camera. Slowly turns the camera to face us and starts filming. She gives us a moment to look at the world from her perspective, to look back at us. It's hard to imagine what her life is like, but she helps us to consider the lives of all the species who share our planet. When the lens was turned on us, we both realized that number 1001 should be Homo sapiens, the human being in the sea forest. We are part of wild nature, part of this underwater forest. She gives us inspiration to keep going with our work, to shed light on those who have no physical voices, but whose biological presence keeps us breathing. Eventually, she gives my camera back. I'll need a new lens, but the lesson she has taught us is priceless. Quindi ecco, se siete riusciti a seguire un po' l'audio, appunto racconta di questo uno dei milioni di giorni in cui è andato a fare le sue appunto giornaliere immersioni nell'oceano con un amico biologo. Gli è capitato che un polpo, che loro non stavano cercando ma per l'appunto ci si sono imbattuti, che era prima nella sua tana, decide di allungare i tentacoli, di inseguirlo diciamo, e rubargli la telecamera. Quindi gli ruba la telecamera, la prende, la aggeggia un po', la studia, la guarda, la cosa, e a un certo punto però succede, guarda un po' che gira l'obiettivo e quindi riprende effettivamente, non viene più ripreso lui, non è più ripreso se stesso il polpo, ma riprende gli umani. E quindi per quello vi dicevo, vi metterò il link di questo video perché è veramente bello da vedere e è un momento di grande rivelazione per appunto Craig Foster e quest'altro amico con cui era, perché capiscono, intanto vedono il mondo dalla prospettiva del polpo, e quindi già questo ovviamente è un mind blowing discreto. E poi capiscono di essi stessi essere all'interno dell'oceano, all'interno della vita, all'interno come il polpo che si nutre della vita, si nutre del mondo e vive grazie a questo pianeta, anche noi esseri umani siamo tali, siamo esattamente la stessa cosa. E quindi quello che cita è il... dice, noi siamo la milleunesima specie che metteremo nel nostro progetto di appunto 1001 specie, 1000+1 species, una roba del genere, che è uno appunto dei progetti portati avanti dal Sea Change Project. Quindi ecco, finisco un po', concludo questa puntata che, scusate, è un po' più corta del solito, dicendovi appunto di questo, questi suoi impegni appunto di Craig Foster, che tra l'altro è quello che ha fatto il documentario Il mio amico in fondo al mare, o My Octopus Teacher in inglese, che è estremamente famoso e può darsi l'abbiate anche già visto. Comunque appunto dicevo, quindi Sea Change Project è una comunità di scienziati, storytellers, giornalisti, filmmakers, che tutti insieme lavorano appunto a preservare la natura, nel loro caso specifico ambienti marini, oceanici, quindi hanno un po' questo focus qua, e ci lavorano in vari modi, sotto vari ambiti, quindi con progetti di educazione, con documentari, come avrete capito, libri, esposizioni, ora hanno anche iniziato un podcast, musica, insomma, c'hanno veramente un ampio spettro, diciamo, di lavoro, tutto ciò anche con ricerche scientifiche a supporto, quindi anzi proprio con collaborazioni vere e proprie con appunto biologi, archeologi e un sacco di altri scienziati. Uno dei loro progetti è questo appunto 1001 specie, 1001 Sea Forest Species, sì, scusate, specie della foresta oceanica, dove hanno deciso di descrivere appunto con tanto di fotografie, documenti, eccetera, 1000 specie più una, e quell'una sarà l'essere umano, perché hanno deciso che l'essere umano è... hanno deciso, diciamo, che il polpo gliel'ha detto in qualche modo che l'essere umano deve essere quella 1001esima specie. Che dire, potrei dire ancora tantissimo di questo libro che, come avrete intuito, mi ha appassionato molto, ve lo consiglio, appunto Intuizione Selvaggia si chiama, scorre veramente veramente bene, è tutto suddiviso in micro capitoli, per cui veramente anche iniziarlo, interromperlo, riniziarlo, direi che non c'è grandi problemi. E con questo, appunto, come vi dicevo, concluderei la puntata odierna. Vi manderei, come sempre, un ultimo pezzo e vi saluto, vi do appuntamento, come sempre, il prossimo lunedì, sempre alle 19, sempre qui con Nervature. Ormai ci ascoltiamo l'ennesima canzone di Mamma Nikita, tanto ormai oggi è andata così. Mi raccomando, restate connesse sempre qui su Radio Wombat e diffondeteci anche, perché no? Fateci sentire altrove e fatevi sentire voi, iscriveteci al pad, ascoltateci, insomma, ci siamo, ci siete. Ciao! Some